Lei, Cochrane, che città lo mandò a chiamare? Taranto, professore. Benissimo. E allora? C'è stata una battaglia, professore. Benissimo. Dove? La faccia vuota del ragazzo interrogò la finestra vuota, favoleggiata dalle figlie della memoria. E tuttavia in qualche modo ci fu, anche se non come la memoria l'ha favoleggiata. Un'esclamazione d'impazienza. Poi tonfo delle ali trasmodanti di Blake. Odo irruinare di tutto lo spazio, vetro infranto e muratura crollante, e il tempo un'unica, livida vampata finale. Che ci rimane allora? Non ricordo il luogo, professore. 279 avanti Cristo. Ascoli, disse Steven, dando un'occhiata al nome e alla data sul libro con i suoi sfregi cruenti. Sì, professore. E disse: un'altra vittoria come questa e siamo spacciati. Quella frase il mondo se l'era ricordata. Ottusa distensione della mente. Da un colle, a dominio di una pianura cosparsa di cadaveri, un generale che parla ai suoi ufficiali, appoggiato a una lancia. Generale qualunque, a ufficiali qualunque, porgono orecchio. Lei, Armstrong, disse Steven. Quale fu la fine di Pirro? La fine di Pirro, professore? Io lo so, professore, lo domandi a me, professore, disse Comyn. Aspetti, lei, Armstrong, sa qualcosa di Pirro? Un cartoccio di fichi secchi se ne stava acquattato nella cartella di Armstrong. Lui li appallottolava ogni tanto tra le palme e quietamente li inghiottiva. Minuzzoli aderivano alla pelle delle labbra. Fiato addolcito di ragazzo. Gente benestante, orgogliosi che il figlio maggiore fosse in marina. Vico Road, Dalkey. Pirro, professore? Pireo, un molo? Tutti risero, alta, in amena, malevola risata. Armstrong volse lo sguardo ai compagni, profilo di una stolida gaiezza. Tra un momento rideranno più forte, consci della mia scarsa autorità e delle rette che i loro babbi pagano. Allora mi dica, fece Steven, toccando col libro la spalla del ragazzo, che cos'è un molo? Un molo, professore, disse Armstrong. Una cosa che sporge tra le onde, una specie di ponte. Il molo di Kingstown, professore. Alcuni risero di nuovo, in ameni, ma con intenzione. Due nell'ultimo banco bisbigliavano. Sì, sapevano. Senza mai aver imparato né mai essere stati innocenti. Tutti. Con invidia osservò le loro facce. Edith, Ethel, Gertie, Lily. Le loro simili, anche loro dai fiati addolciti di tè e marmellata, le risatine dei loro braccialetti nella zuffa. Il molo di Kingstown, disse Steven. Sì, un ponte fallito. Le parole turbarono il loro sguardo. Come, professore? Domandò Comin. Un ponte scavalca un fiume. Per lo zibaldone di Heinz, nessuno qui a sentire. Stasera, con destrezza, tra sfrenate chiacchiere bevute per trapassare il brunito sbergo della sua mente. E allora? Un buffone alla corte del suo signore vezzeggiato e disprezzato, che si guadagna la lode di un clemente signore. Perché avevano scelto tutti quanti quella parte? Non solo per la morbida carezza. Anche per loro la storia era un racconto come tanti altri sentiti troppo spesso. La loro patria un monte di pietà. Se Pirro non fosse caduto ad Argo per mano di una vecchiaccia, o Giulio Cesare non fosse stato ucciso a coltellate, cose che non si possono abolire col pensiero. Il tempo le ha segnate col suo marchio e in ceppi dimorano nel luogo delle infinite possibilità che esse hanno estromesso. Ma possono essere state possibili, dato che non furono mai. O fu possibile solo ciò che avvenne. Tessi, tessitore del vento. Ci racconti una storia, professore? Sì, professore, una storia di fantasmi. Dove eravamo rimasti qui? Domandò Steven prendendo un altro libro. Non pianger più, disse Comin. Avanti lei, Talbot. E la storia, professore? Dopo, disse Steven. Continui, Talbot. Un ragazzo bruno aprì un libro e lesto lo appoggiò dietro il baluardo della cartella. Recitò sgorghi di versi, gettando sguardi intralice sul testo. Non pianger più, dolente pastore, non pianger più, che Licidas, tuo duolo, non è morto, benché sia sprofondato sotto l'equoreo piano. Deve essere un movimento, allora, un'attualità del possibile in quanto possibile. La frase di Aristotele si formò tra i versi barbugliati e andò alla deriva fino al silenzio studioso della biblioteca di Sainte-Geneviève, dove aveva letto al riparo da una Parigi peccaminosa per sere e sere. Gomito a gomito, un esile siamese compulsava un manuale di strategia. Cervelli pasciuti e pascenti intorno a me, sotto lampade a incandescenza, infilzati con un tenue palpitare delle antenne, e nel buio della mia mente un bradipo del mondo sotterraneo, riluttante, schivo di luce, che muove le sue squamose volute di drago. Pensiero è il pensiero del pensiero. Tranquilla luminosità, l'anima è in certo modo tutto ciò che è. L'anima è la forma delle forme. Tranquillità subitanea, vasta, incandescente, forma delle forme. Talbot ripeteva: per la terribile possanza di colui che camminò sulle onde, per la terribile possanza. Volti pure, disse tranquillamente Steven. Io non vedo niente. Che cosa, professore? Domandò candidamente Talbot, chinandosi in avanti. La sua mano voltò la pagina, si ritrasse indietro e riprese, perché proprio allora si era ricordato. Di colui che camminò sull'onde. Anche qui su questi cuori vili si stende la sua ombra, e sul cuore, sulle labbra di chi lo irride, e sulle mie. Si stende sulle facce bramose di coloro che gli offrirono l'obolo del tributo. A Cesare quel che è di Cesare. A Dio quel che è di Dio. Un lungo sguardo degli occhi oscuri, una frase enigmatica da tessere e ritessere sui telai della chiesa. Sì. Indovina, indovina la Grillo. Semi da seminar m'ha dato il babbo. Talbot infilò il libro chiuso nella cartella. Ho sentito tutto? Domandò Steven. Sì, professore. Alle 10 c'è hockey, professore. Mezza vacanza, professore, è giovedì. Chissà rispondere a un indovinello? Domandò Steven. Ammonticchiavano i libri, crepitano le matite, frusci di pagine. Accalcandosi in gruppo, infilavano e affibbiavano le cinghie delle cartelle con un allegro vociferare. Un indovinello, professore, lo dica a me, professore. A me, professore. Uno difficile, professore. Ecco l'indovinello, disse Steven. Cantò il gallo al mattino, il cielo era turchino, in cielo i battocchi davano 11 rintocchi. È ora che questa animuccia in cielo vada a cuccia. Che cos'è? Che Cos'è, professore? Ripeta, professore, non abbiamo sentito. cos'è? I loro occhi si slargavano mentre i versi venivano ripetuti. Dopo una pausa, Cochrane disse. Che cos'è, professore? Ci arrendiamo. Steven, con un prurito in gola, rispose: La volpe che seppellisce la nonna sotto un cespuglio di caprifoglio. Si alzò e ruppe in una risata nervosa, a cui le loro grida fecero un eco di costernazione. Un bastone batté alla porta e una voce nel corridoio annunziò: Ok! Sciamarono, sgusciando dai banchi, scavalcandoli. In un baleno erano spariti. E dal ripostiglio giunse uno sbattere di mazze e un parapiglia di scarpe e di voci. Sargent, il solo che avesse indugiato, si fece avanti con lentezza, tenendo un quaderno aperto. I capelli folti e il collo scarno davano a divedere un che di tardo, e attraverso le lenti appannate, deboli occhi si levavano imploranti. Sulla gota, smorta ed esangue, c'era una lieve macchia d'inchiostro. a forma di dattero, recente e umida come una traccia di lumaca. Porse il quaderno. In cima alla pagina stava scritta la parola operazioni. Sotto c'erano delle cifre sbilenche. In fondo una firma contorta, con gli occhielli delle lettere ciechi e una macchia. Cyril Sargent. Firma e suggello. «Mister Deasy mi ha detto di riscriverle tutte», disse, «e di fargliele vedere, professore». Steven toccò gli orli del quaderno. Nullità. «Ha capito ora come si fanno?» domandò. «Dall'esercizio 11 al 15», rispose Sargent. «Mister Deasy ha detto che dovevo copiarle dalla lavagna, signore». «Le sa fare da sé?» domandò Steven. «No, professore». Brutto e nullo, collo magro e capelli folti, e una macchia d'inchiostro, una traccia di lumaca. Eppure c'era una che lo aveva amato, portato in braccio e dentro al cuore. Se non fosse stato per lei, la maratona del mondo lo avrebbe schiacciato sotto i piedi, spiaccicata lumaca senza vertebre. Lei aveva amato quel debole sangue acquoso trasfuso dal proprio. Era dunque vero. La sola cosa autentica della vita. Sul corpo prostrato della madre cavalcò nel suo santo zelo il focoso colombano. Essa non era più. Lo scheletro tremante di un ramoscello bruciato nel focolare. Un sentor di legno di rosa e di cenere umida. Aveva impedito che lo schiacciassero sotto i piedi e se n'era andata, senza quasi essere esistita. Un'animuccia andata in cielo. E in una landa sotto l'ammiccare delle stelle, una volpe, rosso fortore di rapina nel pelo, con occhi lustri, spietati, grattava nella terra, ascoltava, grattava via la terra, ascoltava, grattava e grattava. Seduto accanto a lui, Steven risolveva il problema. Dimostra con l'algebra che lo spettro di Shakespeare è il nonno di Amleto. Sargent guardava in tralice attraverso gli occhiali a sghimbescio. Le mazze da hockey sbattevano nel ripostiglio, il colpo sordo d'una palla e i richiami dal campo. Attraverso la pagina i simboli si muovevano in solenne moresca, sotto le maschere delle loro lettere, con bizzarre berrette di quadrati e cubi. «Date la mano, traversate, inchinatevi alla dama, così!» Demonietti usciti dalla fantasia dei mori. Scomparsi anche loro dal mondo. Averroè e Mosè Maimonide, uomini scuri nel volto e nel gesto, che facevano balenare nei loro specchi beffardi l'anima buia del mondo, un'oscurità splendente nella luce, che la luce non poteva comprendere. «Capisce ora? Riesce a fare da solo quella dopo?» «Sì, professore». Con lunghi tratti tremuli, Sargent ricopiò i dati. Sempre in attesa di una parola di aiuto, la mano muoveva fedelmente i simboli incerti, un debole color di vergogna lippolando sotto la pelle opaca. Amor matris, genitivo, soggettivo e oggettivo. Col sangue debole il latte sieroso l'aveva nutrito e aveva nascosto agli occhi degli altri le sue fasce. Ero come lui, queste spalle cadenti, questa sgraziataggine. La mia infanzia si china qui, accanto a me. Troppo distante perché io possa posarvi la mano anche una sola volta, o lievemente. La mia è distante e la sua segreta come i nostri occhi. Silenziosi, pietrosi, segreti sono insediati nei palazzi bui di entrambi i nostri cuori. Segreti stanchi della loro tirannide, tiranni disposti a essere detronizzati. L'operazione era fatta. «È semplicissimo», disse Steven alzandosi. «Sì, professore, grazie», rispose Sargent. Asciugò la pagina con un sottile foglio di carta assorbente e riportò il quaderno al suo banco. «Meglio che adesso lei vada a prendere la mazza e raggiunga gli altri», disse Steven, seguendo verso la porta la figura sgraziata del ragazzo. «Sì, signore». Nel corridoio si sentì il nome del ragazzo chiamato dal campo. «Sargent!» «Corra!» disse Steven. «Mister Deasy la chiama!» Si fermò nel portico a guardare il ritardatario che correva verso il misero campo da gioco, dove voci acute stavano contendendo. Erano divisi in squadre e Mr. Deasy avanzava, passando sui radi fili d'erba, con i piedi inguainati nelle ghette. Quando ebbe raggiunto la scuola, le voci di nuovo in contesa lo chiamarono. Egli volse i bianchi baffi rosi. «Cosa c'è ora?» gridava continuamente senza ascoltare. «Cochrane e Halliday sono nella stessa squadra, signore!» gridò Steven. «Vuole attendere un momento nel mio studio?» disse Mr. Deasy. «Finché non abbia ristabilito l'ordine qui!» E nel riattraversare indaffarato il campo, la sua voce da vecchio gridava severa. «Cosa succede? Cosa c'è?» Le loro voci acute gli gridavano intorno da ogni lato. Le loro molte forme lo serravano, mentre il sole sgargiante scialbava il miele dei suoi capelli maltinti. Un'aria stantia di fumo gravava nello studio, insieme all'odore del cuoio logoro e scolorito delle sedie. Come il primo giorno che egli contrattò con me qui. Com'era nel principio, è ora. Sulla credenza il vassoio di monete dell'epoca Stuart, vile tesoro di una torbiera, e sempre sarà. E comodi nel loro astuccio di velluto violetto sbiadito i cucchiaini sormontati dai 12 apostoli che han predicato a tutti i gentili, nei secoli dei secoli.